quel folle, quel nocchier, che non vuol ganciar sentier, e conosce il vento il fido, e conosce il vento il fido. E bel folle, quel nocchier, che non vuol ganciar sentier, e conosce il vento il fido, il Navicella, navicella, venga d'orna, torna, torna, torna, torna, finché il tempo torna al nido, torna, torna, finché il tempo torna al nido. Navicella, navicella, venga d'orna, torna, torna, finché il tempo torna al nido. Navicella, torna, torna, finché il tempo torna al nido. Torna, torna, finché il tempo torna al nido. E bel vole quello chier che non vuol cangiar sentier, e conosce il vento e fido, e conosce il vento e fido. E ben folle quel nocchier che non vuol cacciar sentier, e conosce il vento il fido, il vento il fido, e conosce il vento il fido.